ka ka buru buru ti mwenge ta bene ti mwenge ta bene ta bene anta ka ka buru buru ti mwenge ta bene ti mwenge ta bene ta bene anta ba kata ba sambile po ti mwenge ta bene ta bene ti mwenge ta bene ta bene abantu ba kata ba sambile po ti mwenge ta bene ta bene ti mwenge ta bene ta bene anta ta ba ka buru buru ti ndandae ta bene ta bene ti ndandae ta bene ta bene Anta ka ka buru buru ti mwenge ta bene ta bene ti mwenge ta bene ta bene abantu bakata basambile po ti mwenge ta bene ta bene ti mwenge ta bene ta bene abantu bakata basambile po ti mwenge ta bene ta bene ti mwenge ta bene ta bene Bambo Fadhili William Mubita kuti Tipita ku 20th century Kumene tikondwela pasiku ili lalikulu Tikumana na Bambo Duncan Chivambo Bambo Juma Bambo Silas Bambo Matias Bambo Oche Bambo Fadhili Na Bambo Namai Tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, tabene, t